Bollettino settimanale numero 4. Libertà a tutti i prigionieri e tutte le prigioniere politiche. Settimana di lunedì 12 aprile. L'imprigionamento, di per sé, suppone un attacco diretto e gravissimo alla salute delle persone e impedisce lo sviluppo delle attività vitali per mantenere una salute fisica e mentale ottima. Questo spiega, in gran parte, il motivo per cui le carceri registrano una prevalenza di malattie sostanzialmente superiore alla media sociale. È qui che la fallacia del recupero e della riabilitazione carceraria si manifesta con tutta la sua priorità. La prigione è una macchina del potere che cerca di perpetrarsi a partire dal castigo, la sofferenza e la morte. È quindi incompatibile postulare che si possa preservare la salute fisica e psichica in un'istituzione disegnata per produrre castigo e dolore. Questa situazione si aggrava ancora di più se consideriamo le deficienti e inumane condizioni sanitarie che si vivono all'interno delle prigioni. L'abbandono sanitario deve essere considerato come un ulteriore ingranaggio della macchina carceraria di tortura e castigo, e le carenti e limitate condizioni di salute che ricevono i prigionieri e le prigioniere nelle carceri cilene e nelle sale di salute ambulatoriali ASA sono un crudele riflesso di tutto questo, dove i medici e il personale sanitario assumono logiche e pratiche proprie dei carcerieri e delle carceriere. Nell'attuale contesto pandemico, la risposta della gendarmeria, assai lontana da generare misure basiche per la prevenzione sanitaria, è stata l'intensificazione di misure repressive verso la popolazione reclusa, evidenziando una situazione di maltrattamenti, torture fisiche e una forte repressione in generale per cercare di mantenere il controllo all'interno degli istituti di pena a forza di botte, colpi e castighi. Il castigo sanitario cerca di esprimersi anche attraverso i corpi dei nuovi compagni e compagne che da 22 marzo sono in sciopero della fame. Gli viene estratto il sangue due volte alla settimana e ci sono faticosi trasferimenti verso ospedali penitenziari. Si cerca chiaramente di debilitare la salute dei nostri compagni e compagne e sottomettere la loro volontà di lotta. Come coordinatore dei 10 ottobre abbiamo elaborato questo bollettino informativo settimanale nel quale si informa sulla condizione dei prigionieri e delle prigioniere arrestati per lottare e dare notizia dei fatti recenti che li riguardano, e così fare concreto un incarico che abbiamo preso con forza in questa lotta per la libertà. Chi si dimentica dei prigionieri e prigioniere si dimentica della lotta. Attualizzazione delle condizioni dei prigionieri e delle prigioniere politiche. Giovedì 8 aprile si è concluso il processo a carico di 4 compagni di San Antonio. Negli atti di chiusura il Tribunale Reale Penale di San Antonio ha dichiarato colpevole Jordano Sanander per i reati di tentato omicidio di un agente della Polizia di Investigazione e di ricettazione e danni reiterati, per una pena di 5 anni e 300 giorni. Intanto Claudio Bravo, Patricio Alvarado e Jorge Hernandez sono stati condannati per il delitto di danni reiterati. Jorge e Patricio già erano agli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre Claudio, dopo la risoluzione, ha riacquistato la libertà lo stesso 8 aprile. La lettura della sentenza è stata martedì 13 aprile. Mattias Andrade, prigioniero politico della rivolta, è stato processato e giudicato per l'incendio di una colonnina del pedaggio a Ovalle, nel contesto dell'insurrezione popolare. È uscito in libertà lo scorso 7 aprile. Il Tribunale Orale Penale di Ovalle lo ha condannato per delitti minori. Lunedì è stato condannato a 300 giorni per disordini e 818 per tentato omicidio, ma vista la pena già scontata con l'arresto preventivo, verranno scontati in libertà vigilata. José Luis Ladra, dopo 8 mesi di prigione preventiva, è stata accolta la sollecitazione di cambio di misura cautelare, con la quale, lo scorso 7 aprile, José Luis è uscito per gli arresti domiciliari in attesa che si legga la sentenza. È accusato di aver incendiato la casa del governo di Melipilla. Bisogna segnalare che l'eccesso di prigione preventiva attenta al suo diritto di accedere ad un trattamento in accordo con la sua situazione di discapacità intellettuale. Il compagno prigioniero politico della rivolta, Luis Cordalán, si trova in prigione preventiva nel carcere di Limache e senza accesso alle visite dal 2 marzo 2020. Rischia 2 anni di prigione con l'accusa di aver partecipato all'incendio del municipio di Quilpué. Bisogna segnalare che tra le parti civili appare il municipio di Quilpué e quello di Valparaíso. Ricordiamo che il compagno ha problemi di udito, il che rende ancora più difficile la sua vita in carcere. Il suo processo è iniziato dopo un anno di prigione preventiva e gli sono state negate le misure cautelari, obbligandolo alla prigionia. Luis Castillo, prigioniero politico della rivolta, inizia lo sciopero della fame il 29 marzo, in appoggio allo sciopero che portano avanti i prigionieri e le prigioniere anarchiche e sovversive dal 22 di marzo. Luis assume le loro richieste e aggiunge quella per la sua libertà. Rischia 25 anni di prigione per l'associazione illecita, danni e la legge di sicurezza interna dello Stato. Da marzo del 2020 è in detenzione preventiva nel carcere di Guachalalume. Il 6 aprile il 7° Tribunale di Garanzia di Santiago ha sanzionato con 20 giorni senza visite il compagno Mauricio Hernández Norambuena per ipotetiche minacce a guardie carcerarie incaricate della sua custodia. Sottolineiamo come si conferma l'atteggiamento di persecuzione e oppressione che Gendarmeria esercita costantemente verso questo compagno. Il 19 febbraio è iniziato il processo del caso nominato dal Principato, nel quale tre compagni rischiano pene che vanno da 25 a 29 anni di carcere. Il processo si svolge nel 3° Tribunale Penale Orale di Santiago. Il 9 aprile, dopo 9 settimane, il processo è stato dichiarato concluso. Il 13 e 14 di aprile ci saranno le arringhe di accusa e difesa, dopo le quali il Tribunale dovrà far uscire il verdetto. Carcere di alta sicurezza. Dopo l'intervista rilasciata da Mauricio Hernández Norambuena a un programma della televisione pubblica, gli interni dell'unità sociale di massima sicurezza, il carcere di massima sicurezza, saranno puniti con la privazione sociale, che consiste nell'allunamento delle visite e delle videochiamate, limitandosi quindi alle mere chiamate telefoniche. Secondo una denuncia pubblica realizzata da un considerevole numero di organizzazioni sociali, questo corrisponde all'intenzione di controllare tutta la popolazione detenuta denominata dall'istituzione come riconnessione pubblica, alla quale è stato risposto all'inchiesta di gendarmeria lo scorso 4 aprile con uno sciopero del carrello, che sta a significare rifiutare gli alimenti che provengono dall'istituzione. Questa situazione, oltre alla precarietà delle condizioni in cui stanno compiendo la condanna e l'isolamento prolungato a cui sono costretti, chiusi tra le 22 e le 23 ore in cella senza muoversi, evidenzia, secondo la denuncia di queste organizzazioni sociali e diversi avvocati, l'atrocità dell'esecuzione di una legge di esecuzione penitenziaria in cui sono sconosciuti i diritti fondamentali delle persone private della libertà. Il 22 aprile, 38 interni dell'unità speciale di massima sicurezza avranno un'udienza esattamente per questo tema. Gastón Quesada si trova in prigione nel carcere di Villarrica dal passato 8 febbraio, accusato dell'incendio del municipio di Villarrica nel contesto degli scontri che si tennero dopo l'uccisione da parte dei carabineros del giovane giocoliere Francisco Martínez. A Gastón, giovane mapuche, è stata recentemente negata la possibilità di accedere a cure mediche proprie della sua cultura e della cosmovisione. Questo significa la violazione della Convenzione 169 della OIT, Organizzazione Internazionale del Lavoro, trattato internazionale che è stato ratificato dallo Stato cileno da ormai 13 anni. Dario Chacó è accusato dell'incendio della chiesa di San Francisco de Betancur nel contesto della rivolta popolare. Il giovane era in prigione preventiva da un anno e tre mesi. Lunedì 5 aprile la Corte d'Appello di Puerto Montt ha confermato l'esclusione di alcune prove che erano state presentate dal Pubblico Ministero nel processo che ci dà l'idea delle illegalità e irregolarità in cui è in corso la procura del suo impianto accusatorio. Dario Chacó è stato rimesso in libertà lunedì 12 aprile. Con un comunicato si dà conoscenza che il 16 marzo il lonco Ernesto Lincopan Villagrán, appartenente alla comunità Felipe Lincopan, prigioniero politico mapuche nel carcere di Villarrica, ha cominciato uno sciopero della fame con il quale vuole denunciare le irregolarità del suo processo, così come i tratti razzisti che sarebbero il vero motivo del suo arresto. Dopo tre settimane il lonco ha deposto lo sciopero. Il 22 marzo la totalità del modulo 1 del carcere di Valdivia inizia uno sciopero della fame indefinito per denunciare i continui soprusi e perquisizioni che Gendarmeria esegue sistematicamente e denunciando le torture che sono state inflitte a prigionieri e prigioniere. Il 9 aprile la totalità del modulo ha deciso di interrompere lo sciopero della fame. Freedom Astorga, prigioniero politico della rivolta che dal 5 marzo porta avanti lo sciopero della fame, durante il quale si è cucito le labbra come forma estrema per visibilizzare il suo caso. Freedom è da più di un anno in detenzione preventiva nel carcere di Antofagasta, in un processo investigativo pieno di vizi, dove le prove in nessun modo lo collocano nel luogo dei fatti. Il 9 aprile Freedom ha interrotto lo sciopero. È importante segnalare la pressione a cui Freedom è stato sottoposto da Gendarmeria perché deponesse lo sciopero. Sciopero della fame, prigionieri e prigioniere politiche anarchici e sovversivi e della rivolta. Il 22 marzo, 9 prigionieri politici e politiche del carcere di massima sicurezza, modulo di massima sicurezza del carcere di Santiago 1 e San Miguel, hanno iniziato uno sciopero della fame in protesta contro le restrizioni che impediscono di optare per la libertà condizionata. In concreto si esige la deroga dell'articolo 9 e il reintegro dell'articolo 1 del decreto legge 321, così come anche la libertà immediata del compagno Marcello Villarroel. I tre prigionieri della rivolta che avevano iniziato lo sciopero hanno dovuto interromperlo recentemente per motivi di salute. I compagni che continuano lo sciopero sono Marcello Villarroel, Monica Cavallero, Francisco Solar, Joaquín García, Pablo Bajamondes. Juana Lista si somma alla mobilitazione ma non partecipa allo sciopero per motivi di salute. Per ciò che riguarda il tema medico, tutti i compagni e compagni sono testati quotidianamente con il controllo delle funzioni di base. Importante è denunciare che alla maggioranza di loro viene prelevato il sangue 2 volte alla settimana e Monica viene trasferita ad un ospedale penale 2 volte alla settimana, che risulta essere evidente accanimento dei carcerieri e carcerieri verso i compagni e le compagne che hanno perso considerevolmente peso e presentano dolori di stomaco, vertigini, crampi e nausea. E ci si rende conto che gli effetti dello sciopero si stanno già manifestando sui corpi dei e delle scioperanti che sono in mobilitazione da ormai 25 giorni. Manuel Montenegro, prigioniero politico nel carcere di Valdivia, è in sciopero della fame da più di 80 giorni per denunciare le irregolarità del suo processo, così come quello di suo figlio attualmente detenuto nel Sename. Tutto questo come dimostrazione della persecuzione e dell'accanimento di cui sono vittime i lottatori e le lottatrici sociali in Cile. Che la solidarietà sia più di una pratica, abbasso i muri delle prigioni. Coordinadora dei 18 ottobre.